Vangelo di Matteo, capitolo 18. In quel mentre i discepoli s'accostarono a Gesù dicendo: «Chi è dunque il maggiore nel regno dei cieli?» Ed egli, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo posò in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non mutate e non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli. Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo, è lui il maggiore nel regno dei cieli. E chiunque riceve un cotal piccolo fanciullo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel fondo del mare. Guai al mondo degli scandali, poiché è ben necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Ora, se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di peccato, mozzali e gettali via da te. Meglio è per te d'entrare nella vita monco o zoppo, che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se l'occhio tuo ti è occasione di peccato, cavalo e gettalo via da te. Meglio è per te d'entrare nella vita con un occhio solo, che aver due occhi ed essere gettato nella gehenna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare alcuno di questi piccoli, perché io vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono del continuo la faccia del Padre mio che è nei cieli, poiché il figliuolo dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perito. Che vi par egli, se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce? Non lascerà egli le 99 sui monti per andare in cerca della smarrita? E se riesce di ritrovarla, in verità vi dico che si rallegrerà più di questa che delle 99 che non si erano smarrite. Così è voler del Padre vostro che è nei cieli, che neppure un solo di questi piccoli perisca. Se poi il tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se t'ascolta, avrai guadagnato il tuo fratello, ma se non t'ascolta, prendi teco ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. E se rifiuta d'ascoltarli, dillo alla Chiesa, e se rifiuta d'ascoltare anche la Chiesa, siati come il pagano e il pubblicano. Io vi dico in verità che tutte le cose che avrete legate sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che avrete sciolte sulla terra saranno sciolte nel cielo. Ed anche in verità vi dico, se due di voi sulla terra s'accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dovunque due o tre son raunati nel mio nome, qui vi son io in mezzo a loro. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: «Signore, quante volte peccando il mio fratello contro di me gli perdonerò io? Fino a 7 volte?» E Gesù a lui: «Io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile ad un re che volle fare i conti coi suoi servitori, e avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti, e non avendo egli di che pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figliuoli e tutto quello che aveva, e che il debito fosse pagato. Onde il servitore, gettatosi a terra, gli si prostrò dinanzi, dicendo: «Abbi pazienza con me, e ti pagherò tutto». E il signore di quel servitore, mosso a compassione, lo lasciò andare, e gli rimise il debito. Ma quel servitore uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari, e afferratolo lo strangolava dicendo: «Paga quel che devi». Onde il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti pagherò». Ma colui non volle, anzi andò e lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito. Or i suoi conservi, veduto il fatto, ne furono grandemente contristati ed andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: «Malvagio servitore, io t'ho rimesso tutto quel debito, perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come ebbi anch'io pietà di te?» E il suo signore, diratolo, diede in mano degli aguzzini fino a tanto che avesse pagato tutto quel che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello.